Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Siete pronti all'arrivo del meta lusso? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Impopolare di questi tempi, lo sappiamo, parlare di lusso. Ecco che allora si cercano nuove definizioni, nuovi contesti, nuovi paradigmi per parlare dei consumi cosiddetti di alta gamma. E non sempre, non più, diciamo, tutto questo ha a che fare con il prezzo. Ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti. Siete sicuri che tutti gli oggetti in via di estinzione, i prodotti tecnologicamente superati o quelli semplicemente passati di moda siano destinati al cassonetto? Nel focus sui trend scopriremo che non è così, parleremo di consumi dimenticati. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Sale più dell'inflazione il carrello della spesa. Gli acquisti giornalieri, dal cibo ai carburanti, hanno raggiunto rincari del 4,7%, ai massimi da oltre 2 anni e mezzo. Un dato superiore a quello dell'inflazione, stabile al 3,3%. Pesano i rialzi di luce, gas e soprattutto benzina, cresciuta di oltre il 20% in un anno. Fra gli alimentari, si segnalano i balzi in avanti di caffè, uova, vini e formaggi. Niente crisi dei consumi invece in Turchia, dove la crescita si è assestata su livelli cinesi. Spicca la performance dei parrucchieri. Nel 2011 le donne turche, per farsi ritoccare la piega o rifare il colore, hanno speso 2 miliardi di dollari. Impegnato, uomo, donatore di organi. Facebook lancia la nuova opzione, Organ Donor. Tutti gli utenti potranno indicare sul profilo la volontà di donare gli organi e accedere automaticamente ai link dei registri dei donatori per iscriversi. La funzione è al momento disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Fra qualche mese verrà estesa anche ad altri paesi. Il Titanic avrà un erede. Il ricchissimo e controverso magnate minerario australiano Clive Palmer ha annunciato la realizzazione di una flotta di navi di lusso di classe mondiale, tra cui una versione del XXI secolo del transatlantico affondato 100 anni fa. Il Titanic 2, stesse dimensioni, verrà costruito in Cina. Il viaggio inaugurale, da Londra a New York, è in programma verso la fine del 2016. Le testate che hanno chiuso i battenti sono nella categoria RIP, riposa in pace, mentre i progetti online, il nuovo, sono raggruppati sotto la dicitura WIP, Work in Progress. Benvenuti in Newspapers That Watch, il blog americano che monitora morte e rinascita dei giornali dal 2007. Nasce Guru, guide responsabili e utili, la collana di Altre Economie sugli stili di vita sostenibili. Tra i titoli Il gambero equo, La guida alla spesa responsabile e il manuale L'energia che ho in mente. La borsa della spesa. Ci serve un po' di glamour. Una settimana ad Abu Dhabi, tutto spesato per tutte e quattro. Fuori città? Esattamente. Vuoi dire che ho speso la bellezza di $40,000 per comprarmi qualche paio di scarpe e ora non ho dove vivere? E Christian Lacroix. Avete presente quando incrociate due begli occhi che vi sorridono e il cuore vi si scioglie come una noce di burro su pane tostato caldo? Io mi sento così quando vedo un negozio. What's wrong with me? E dopo hai un tuffo al cuore quando ti rendi conto che... $320 per una muta da sub! $787 di biancheria intima. L'intimo è un diritto umano inalienabile. Nell'era della crisi, della frugalità, del consumo responsabile e della fine degli status symbol, che spazio ha il lusso? Quali sono i nuovi parametri per definirlo? Quali i brand e le caratteristiche dei prodotti di fascia alta? Un tema molto dibattuto, ricco di spunti interessanti, un tema al quale contribuisce un libro appena uscito, si intitola Meta Luxury. Lo ha scritto insieme a Rebecca Robbins Manfredi Ricca, direttore generale di Interbrand Italia, al quale abbiamo chiesto prima di tutto la definizione di metalusso. Oggi il concetto di lusso è qualcosa di estremamente soggettivo, si tratta di un settore che è cambiato molto negli ultimi anni e questo cambiamento ha generato molta confusione riguardo al significato stesso, quindi si usa questo termine lusso per definire aziende, prodotti, modelli di business, per certi versi anche valori che sono completamente diversi. Quindi ci siamo chiesti effettivamente se sia possibile in qualche modo dare una nuova definizione, anche perché il termine lusso oggi spesso viene visto, giustamente direi, in una luce negativa, come qualcosa di profondamente superficiale. Quindi il meta luxury, ed è un termine che è stato preso a prestito, ispirato se vogliamo dalla metafisica aristotelica, definisce quello che sta oltre il lusso. E abbiamo scoperto, discutendo con pensatori, artisti, accademici, imprenditori, uomini d'azienda, che esiste un paradigma diverso che è basato sulla cultura dell'eccellenza, quindi è un paradigma culturale ed economico che ha degli specifici aspetti. Questi brand del meta luxury hanno quattro caratteristiche che li contraddistinguono. In primo luogo l'aspetto dell'artigianalità, secondariamente il focus, quindi molto spesso si parla di estensione e invece quello che abbiamo scoperto è che quello che sta oltre il lusso è la competenza, quindi la capacità di andare in profondità su un ambito dove si può veramente eccellere anziché cercare di cogliere opportunità in settori che magari non sono quelli dove si può rappresentare un vertice. In terzo luogo l'aspetto della storia, di nuovo questo aspetto del trasmettere l'eccellenza nel tempo e nelle generazioni e la capacità ovviamente però di rimanere costantemente rilevanti. E da ultimo l'aspetto della rarità, che non è il concetto banale di esclusività, ma è una rarità dovuta al valore intrinseco di ciò che si produce. Se le chiedessi di citare qualche brand che corrisponde a questi parametri? Ce ne sono diversi e ce ne sono diversi che hanno alcuni di questi parametri, ma non tutti. Forse sorprenderò chi ci ascolta, ma mi viene in mente ad esempio Fazioli, pianoforti, l'ingegner Fazioli è uno degli intervistati all'interno del nostro libro, dove effettivamente concorrono tutti questi aspetti. Mi piace pensare a questo esempio perché tradisce quello che è un po' il luogo comune del lusso uguale moda, che non necessariamente è vero. I consumatori, i clienti dei prodotti di metalusso, italianizziamo la definizione, sono gli stessi dei prodotti di lusso tradizionali? Direi di no, perché la caratteristica del metalusso è quella di non riunire dei produttori e dei consumatori quanto dei creatori e degli intenditori, quindi coloro che appunto non si limitano a cercare un modello efficiente di produzione ma di privilegiare invece il perseguimento dell'eccellenza da un lato, e dall'altro coloro che ovviamente acquistano volendo fare una scoperta e volendo identificare il valore intrinseco di un oggetto che non è semplicemente possesso ma è anche profonda comprensione. C'è un po' il rischio che il settore si spacchi in due per quanto riguarda la comunicazione, la definizione anche dei prodotti tra i mercati occidentali in crisi e quelli del Far East emergenti, i paesi ricchi di adesso? Credo che sia una delle sfide che i brand del lusso tradizionale, chiamiamolo così, hanno sperimentato negli ultimi anni, dove effettivamente ciò che guida la domanda in mercati ad esempio come la Cina è profondamente diverso da ciò che guida la domanda in mercati come quello europeo o come il Giappone, che pur essendo farista è molto affine per tanti versi ai mercati maturi. In realtà però credo che queste differenze andranno progressivamente scemando a una velocità più rapida rispetto a quello che ci si può aspettare. Quindi oggi sicuramente gestire un brand di lusso tradizionale significa avere un duplice occhio su questi due modelli di consumo, quindi da un lato i mercati maturi e dall'altro mercati in cui ad esempio le gerarchie sociali si stanno formando e quindi l'esigenza dello status symbol per certi versi ancora esiste, però credo che l'allineamento fra questi due modelli sarà più rapido, non sarà immediato, ma sarà più rapido rispetto a quello che molti si aspettano, perché viviamo in un mondo che è profondamente interconnesso. Essere e avere. In studio con Essere e Avere, vi siete mai fermati a riflettere su quanti prodotti di consumo siano passati in pochi anni dal top della classifica degli acquisti all'obsolescenza? Oggi per il focus sui trend parliamo proprio dei consumi dimenticati e di chi ha fatto del loro tramonto un vero e proprio affare. Inestimabile e inafferrabile la tua assenza che mi appartiene. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Buongiorno, grazie. Quanti e quali sono gli oggetti scomparsi, estinti o in via di estinzione dalla scena dei consumi e soprattutto cosa ha preso il loro posto? Perché non tutti sono obsolescenti, tecnologicamente decaduti per così dire, alcuni sono semplicemente passati di moda lasciando dietro di sé consumatori orfani del loro prodotto preferito. Un contesto perfetto per creare e far fruttare una nicchia di consumo, un contesto che ispira anche l'arte e la comunicazione. Patrizia. Sì, i prodotti, gli oggetti sono un po' come noi, nascono, si alterano e muoiono. Oggi parliamo di prodotti e oggetti estinti come i floppy disk o i gettoni telefonici o i jukebox e quelli in via di estinzione dalla scena dei consumi, appunto come le sveglie o gli accendigas in cucina o anche di futura scomparsa, ma in questo caso parliamo per esempio solo del supporto della carta come i giornali, la cui data di scadenza è il 2017 per gli Stati Uniti e il 2027 per l'Italia, secondo l'esperto di media Ross Dawson. Per archiviare e ricordare gli oggetti fisici scomparsi c'è un progetto digitale, non sorprende, è il Museo degli Oggetti Obsoleti, c'è un bel video in rete, basta digitare oggetti obsoleti in inglese, vi si trovano il telefono fisso, quello col disco rotondo con i buchi per comporre i numeri, i giradischi per i dischi in vinile, la macchina da scrivere sia quella meccanica che quella elettrica e poi le audiocassette, le calcolatrici, le radio da casa, il pallottoliere e via dicendo, ognuno con l'anno di nascita e di morte. Si trova però già anche il mouse inventato nel 64 e 2015 è la previsione della sua estinzione secondo i curatori di questo museo. Che la tecnologia, come anticipavi, sia costitutivamente obsolescente si sa, ma il caso della scomparsa delle videocassette è un caso che segna proprio la fine di un'epoca. Sostituite dai CD hanno decretato la morte di Blockbuster, il colosso americano dell'intrattenimento domestico, a vantaggio di avversari come Netflix, retailer online americano che si è preso tutti gli orfani di Blockbuster, e qui il web certamente è una concausa della sua fine, insieme però a un modello di business rimasto invariato nonostante la rivoluzione digitale. Netflix ha reagito con nuovi servizi online, offrendo un servizio di noleggio di DVD e videogiochi via internet con spedizione postale, usata anche dai clienti per la restituzione. Dal 2008 offre anche un servizio di streaming online, e lo streaming in questo caso è una rivoluzione culturale oltre che digitale, ai propri clienti in abbonamento. È sbarcato sul mercato europeo nel 2011, Italia compresa, e qui vedremo costi ed efficienza del servizio postale e rete dati se saranno due variabili critiche per il successo di questa operazione. Ci sono oggetti che scompaiono ma non del tutto, per esempio le macchine fotografiche Kodak, sappiamo mai marchio icona, colosso della fotografia, dopo più di un secolo di attività a inizio di quest'anno si è arresa al fallimento, vittima degli scatti digitali, ma insieme alla fotografia su carta anche le procedure di sviluppo e stampa sono alla deriva, anche se rinasce o resiste qualche centro per lo sviluppo di rullini in bianco e nero, per esperti di fotografia, e poi ci sono iniziative legate anche allo sviluppo stile vintage. E il caso Polaroid, un po' diverso, la macchina fotografica istantanea, l'oggetto mitico degli anni 80, scomparsa nel 2008, risorge però con il modello Z340. L'estetica è simile, ma naturalmente parliamo di una macchina digitale, niente zoom e la stampante integrata con una tecnologia di stampa su carta speciale senza inchiostro, proprio per garantire quella stessa istantaneità del modello storico originario. E sono molti i progetti artistici sugli oggetti dimenticati. Tra i più curiosi, il giradischi che suona LP di legno. È un'opera del tedesco Bartolo Moes Traubeck, si chiama Years, anni, perché è un vero giradischi modificato. Grazie a un computer e a un algoritmo riesce a leggere con la puntina gli anelli dei tronchi d'albero in sezione, producendo suoni musicali, in particolare dei concerti per pianoforte. E ci sono oggetti obsoleti che si possono comunque riparare e riabilitano e fanno tornare nuove professioni scomparse. Un bel esempio è il laboratorio di riparazione, appunto, di prodotti elettrici appena lanciato a Milano. Si chiama Elettricità. Cosa c'è di più dimenticato nell'era del 3D del film muto? Ebbene, quest'anno un film muto, lo conosciamo tutti, The Artist, ha vinto l'Oscar come miglior film. Altro trionfatore del 2012, Hugo Cabret di Martin Scorsese, un film che usa la tecnologia 3D, tuffandosi però completamente nel passato. Toma carica. È come un carion. Chi l'ha costruito? Io direi un mago. Guarda, il buco della serratura è a forma di cuore. Un altro mistero. Ho riparato. È stato un incendio. Tu vieni a vivere con me. Ma tu chi sei, Hugo? E dove abiti? È un segreto? Sì. Oh, bene, io adoro i segreti. E così, vivi da solo. Non proprio. Dove l'hai presa questa? Perché la mia chiave dovrebbe far funzionare la macchina di tuo padre? Patrizia, non solo prodotti, ci sono anche oggetti che fanno parte della memoria collettiva che è in qualche modo difficile abbandonare. Sì, uno di questi è sicuramente la cabina telefonica, un oggetto sempre più recuperato prima della sua definitiva rottamazione. È un oggetto in effetti diventato quasi inutile con la diffusione dei cellulari a partire dai primi anni 90 e al centro di progetti di riconversione in molti paesi europei, compresa l'Italia. Italia in cui la rimozione totale è prevista per il 2016. È un bel esempio di recupero delle cabine, un bel esempio di rinascita, non solo high tech o multimediale. A Londra, per esempio, dove sono perfino un'attrazione turistica, si sa, un progetto per farle sopravvivere trasformandole in biblioteche, cioè in contenitori di libri, così come a New York vengono usate per il book crossing, appunto lo scambio di libri, riviste e giornali. A Parigi France Telecom ha lanciato nuove cabine telefoniche per l'accesso ad internet. In Germania vecchie cabine rimaste tali diventeranno punti di ricarica per i mezzi elettrici come auto, scooter e biciclette, e a Madrid troviamo già la prima cabina di ricarica elettrica per auto. Su Milano è stato lanciato un progetto simile da Critical Upload City, l'organizzazione che organizza missioni di riqualificazione dello spazio urbano, e anche a Torino dal 2 aprile la prima nuova cabina, doppio schermo interno ed esterno, nuovo modello che arriverà tra l'altro anche nelle città italiane dopo questo progetto pilota, si potranno usare per navigare, usare il wifi, ricaricare il cellulare o l'auto elettrica. Insomma, un primo passo verso le smart city del futuro. E ci sono oggetti che tornano come supporti fisici a device digitali. Sono infatti forme analogiche, quelle per esempio per la radiolina portatile di Frog Design col manico, progettata per ospitare un iPhone e quindi di fatto funziona da cassa. Stessa idea per la radiosveglia, e poi oggetti analogici in via di estinzione ma con dei ritorni in versione digitale. Parliamo delle tastiere travolte dai dispositivi touch, anche loro si adattano a tablet e smartphone, migrando quindi nell'ecosistema digitale. Tastiere che comunque possiamo ricreare ovunque, grazie per esempio a periferie tascabili che proiettano i tasti digitali su qualsiasi superficie. C'è poi chi non le concepisce proprio più. È l'azienda svedese Tobii, che già produce dispositivi di eye tracking, cioè la lettura dei movimenti oculari, che sta sviluppando il primo laptop, il primo computer portatile controllato appunto dagli occhi, cioè dal movimento delle pupille. Dall'analogico al digitale anche il passaggio dell'Enciclopedia Britannica, che qualche mese fa ha annunciato ormai solo online, però con dei progetti multimediali all'avanguardia. E anche i passatempi e gli hobby dimenticati di un tempo che fu sono in fase di recupero. Citiamo la festa del ricamo a Vinovo, provincia di Torino, l'11, 12 e 13 maggio, un'arte antica che viene praticata ancora oggi da molte ricamatrici, in mostra tantissime tecniche, espositori da tutta Italia e workshop per imparare a ricamare. Potrebbe diventare un nuovo hobby di tendenza dopo il lavoro a maglia. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra su consumi dimenticati e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, Nick Gentry è un giovane artista che definisce il suo lavoro social art from the obsolete, letteralmente l'arte sociale che nasce dall'obsoleto. Dal punto di vista formale, i suoi lavori sono a cavallo tra la pop art e la street art, sono grandi ritratti in acrilico, ma la novità sta nel supporto utilizzato: VHS, audiocassette e floppy disk al posto della canonica tela. E proprio queste ultime, le opere realizzate sui floppy disk, lo hanno portato al successo. L'artista è abilissimo a far dialogare il supporto, di fatto un puzzle fatto di tessere quadrate, appunto i floppy, con l'opera che vi è rappresentata, giocando con la diversa natura delle superfici del floppy disk, metallo, plastica e carta, e lasciando trapelare dal disegno le originali scritte a mano sulle etichette. I cerchi di metallo al centro dei dischetti poi si trasformano negli occhi dei volti ritratti e, come per magia, quello che è un fossile digitale che racchiude ancora tutte le informazioni sebbene in uno stato inattivo, sembra riprendere vita. Grazie Alessia. Patrizia, questo recupero, riattualizzazione del passato è molto in linea con le istanze sostenibili, con le pratiche che abbiamo citato tante volte del riuso, riciclo, re-commerce, upcycling. Sì, a fronte dell'obsolescenza degli oggetti fisici in un tecnomondo che smaterializza tutto, libri, arte, denaro, relazioni, cioè traducendo ciò che è corporeo nella sua versione digitale, gli oggetti, i prodotti non smettono comunque di rinascere, di tornare con la loro patina del tempo, la loro storia, che anche cambia traiettoria, come abbiamo cercato di raccontare oggi, e questo certamente ha molto a che fare anche con le stanze di ecosostenibilità e con le pratiche del riuso, del riciclo, eccetera, che citavi, legate anche e soprattutto alla crisi. Essereavere@radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.